Capitolo 10. Tornato. Si era in luglio e si cominciava la falciatura. I campicelli andavano prendendo un bell'aspetto e le lunghe giornate estive erano dense di piacevoli occupazioni. La casa restava aperta dalla mattina alla sera e i ragazzi vivevano all'aria libera, tranne nelle ore di scuola. Le lezioni erano però brevi e frequenti le vacanze, perché i Baer avevano fede nel moto come coefficiente di salute, e le nostre brevi estati sono meglio utilizzate nel lavoro dei campi. I ragazzi, rosei, abbronzati, pieni di vigore, con un appetito invidiabile, braccia e gambe robuste, per le quali giacche e calzoni erano diventati corti e stretti, risate, corse e scherzi da un capo all'altro della casa e del capannone. Avventurosi vagabondaggi su per la collina e nella piccola valle, gran soddisfazione nel cuore dei Baer, che vedevano prosperare i loro ragazzi, tanto fisicamente che intellettualmente. Come descrivere tutto ciò? Mancava una cosa sola perché fossero completamente felici, e anche questa venne quando meno se l'aspettavano. A sera inoltrata, mentre i piccoli erano già a letto e i più grandi facevano il bagno nel ruscello, mamma Jo stava spogliando Teddy, quando questi d'un tratto, accennando la finestra illuminata dai raggi della luna, gridò: «Oh, Danny mio!» «No, amore, non c'è Danny. Era la luna bella», disse la mamma. «No, no, Danny, Danny alla finestra! Teddy l'ha vitto!» insisté il piccino eccitatissimo. «Che sia vero?» E mamma Jo si precipitò a guardare dai vetri piena di speranza, ma il viso era scomparso e non si vedeva da nessuna parte traccia di un ragazzo. Lo chiamò per nome, corse alla porta d'ingresso con Teddy nella sua camicina da notte e lo fece chiamare da lui, pensando che la voce del bimbo potesse fare più effetto della sua, ma nessuno rispose. Nulla comparve, ed essi tornarono indietro sconfortati. A Teddy l'idea che fosse stata la luna non andava, e dopo che fu coricato nella culla continuò ad alzare la testa per chiedere «Tonnellà, Danny!». Poi si addormentò. I ragazzi andarono a letto, la casa fu tutta quieta, e solo il canto dei grilli interrompeva il dolce silenzio della notte estiva. Mamma Baer, seduta davanti al grande cesto, sempre pieno di calzerotti dagli inverosimili buchi, pensava al ragazzo perduto. Persuasa che il bimbo si fosse sbagliato, non voleva disturbare il marito raccontandogli quella fantasia del piccino, perché egli aveva ben poco tempo per sé durante il giorno e ora stava scrivendo delle lettere. Erano le 10 passate quando si alzò per chiudere la casa. E mentre si soffermava un minuto a godere la bella scena dall'alto dei gradini, il suo occhio fu colpito da qualcosa di bianco sopra uno dei mucchi di fieno sparsi sul prato. E siccome i ragazzi avevano giocato lì tutto il pomeriggio, pensando che Nan avesse al solito dimenticato fuori il cappello, uscì per prenderlo. Ma avvicinandosi vide che non si trattava di un cappello né di un fazzoletto, ma di una manica di camicia da cui usciva una mano scura. Girò di corsa attorno al mucchio di fieno e scorse Dan profondamente addormentato. Un Dan lacero, sporco, sparuto, esausto, un piede nudo e l'altro ravvolto in una vecchia giacca di tela che evidentemente si era tolta per fasciare alla meglio qualche ferita. Pareva che si fosse voluto nascondere dietro il mucchio di fieno, ma nel sonno doveva aver steso il braccio che lo aveva tradito. Sospirava e brontolava come tormentato da un incubo. E una volta, essendosi mosso, emise un gemito, pur continuando a dormire, sfinito per la stanchezza. «Non può restar qui», disse mamma Baer, e curvandosi su di lui, lo chiamò dolcemente per nome. Il ragazzo aprì gli occhi e la guardò, come se facesse parte del suo sogno, perché sorrise e disse, ancora mezzo addormentato, «Mamma Baer, sono tornato a casa». Lo sguardo, le parole la commossero molto, e ponendogli la mano sotto la testa per aiutarlo a sollevarsi, disse col suo tono cordiale: «Lo sapevo che saresti tornato e son tanto contenta di rivederti, Dan». Egli parve allora svegliarsi del tutto, guardandosi attorno come se si ricordasse a un tratto dove si trovava e dubitasse ancora della realtà di quell'accoglienza affettuosa. L'espressione del suo viso cambiò, disse col suo solito tono sgarbato: «Me ne volevo andare domattina, mi son fermato solo per dare un'occhiata qui mentre passavo». «E perché non sei entrato, Dan? Non ci hai sentito quando ti si chiamava? Teddy t'aveva visto e ti voleva». Non credevo che mi avreste lasciato entrare, rispose rigirandosi fra le mani un fagottino che aveva raccolto come disponendosi ad andarsene. Prova e vedrai, rispose semplicemente mamma Baer, tendendo la mano a indicargli la porta oltre la quale brillava una luce accogliente. Con un lungo sospiro di sollievo, come se un gran peso gli fosse caduto dall'animo, Dan raccolse un robusto randello e si avviò zoppicando verso casa. Ma ad un tratto si fermò per dire preoccupato: Il signor Baer non vorrà. Sono scappato da Page. Lo sa? Egli è molto rincresciuto, ma non fa niente. Sei zoppo? Gli chiese quando si rimise in moto avvertendo la sua andatura. Oh, mi è cascata una pietra sopra un piede mentre scavalcavo un muro e me l'ha schiacciato, ma non è nulla, rispose facendo del suo meglio per nascondere lo sforzo che gli costava ogni passo. Mamma Baer, sorreggendolo, lo fece entrare nella sua camera, dove gli si lasciò cadere su una sedia, appoggiando la testa allo schienale, bianco come un cencio, sul punto di svenire per la stanchezza e la sofferenza. Povero il mio Dan, bevi questo e poi mangerai qualcosa. Ora sei a casa e mamma Baer si prenderà cura di te. Il fanciullo le alzò in viso gli occhi pieni di gratitudine, mentre beveva il vino che se gli accostava le labbra. Poi cominciò a mangiare, lentamente, e ad ogni boccone sembrava rinfrancarsi, tanto che si mise a parlare, nel desiderio ansioso di farle conoscere le sue vicende. «Dove sei stato, Dan?» aveva chiesto mamma Baer mentre tirava fuori delle bende. «Sono scappato, ora è più di un mese. Page non era cattivo, ma troppo rigoroso, non ci stavo volentieri, e allora me la sono svignata giù per il fiume nella barca di un tale. Ecco perché nessuno ha saputo dove fossi andato. Dopo sono rimasto un paio di settimane in una fattoria, ma le ho suonate al figliolo del padrone, allora il vecchio le ha suonate a me, e io sono scappato di nuovo e sono venuto fin qui. Sempre a piedi? Sì, quello non mi ha pagato e io non ho voluto chiedere nulla, ma mi sono rifatto picchiando il ragazzo. E Dan rise, sebbene un po' confuso, guardandosi l'abito a brandelli e le mani sporche. E come hai vissuto? È stato un viaggio lunghissimo per un ragazzo della tua età. Oh, me la sono cavata abbastanza bene finché non mi sono fatto male al piede. Trovavo chi mi dava da mangiare, dormivo nei fienili e di giorno camminavo. Mi son perduto cercando di prendere una scorciatoia, se no sarei arrivato prima. Ma se non avevi intenzione di tornare a stare con noi, che cosa venivi a fare? Oh, mi pareva che avrei rivisto volentieri Teddy e lei e poi sarei tornato al mio vecchio lavoro in città. Ma ero così stanco che mi sono addormentato sul fieno. Se lei non mi avesse scoperto domattina me ne sarei andato. Ti rincresce che l'abbia fatto? E la signora Joe, mentre si inginocchiava per esaminare il piede ferito, gli lanciò un'occhiata fra scherzosa e di rimprovero. Dan arrossì e, tenendo gli occhi fissi sul piatto, disse a voce bassissima: No, signora, son contento. Io desideravo di restar qui, ma avevo paura che lei. Non finì la frase, perché mamma Baer lo interruppe con un'esclamazione di pietà alla vista del piede che era molto mal ridotto. Quando ti è successo? 3 giorni fa. E hai continuato a camminare col piede in questo stato? Avevo il bastone, lo lavavo in tutti i ruscelli che incontravo e una donna mi ha dato uno straccio per coprirlo. Oh, bisognerà che papà Baer lo veda e lo medichi subito. E la signora Joe corse nella stanza accanto, lasciando la porta socchiusa, così che Dan sentì tutto quello che si dissero. Fritz è tornato. Chi? Dan? Sì, Teddy l'ha visto dalla finestra e lo abbiamo chiamato, ma lui si è nascosto dietro un mucchio di fieno sul prato. Ce l'ho trovato io che dormiva mezzo morto dalla stanchezza e dal male. È scappato da Page 1 mese fa e dopo da allora ha sempre camminato per arrivare sin qui. A sentirlo non voleva lasciarsi vedere, voleva tornare in città al suo antico lavoro dopo averci dato un'occhiata, ma è chiaro che l'ha condotto qui attraverso tante vicende la speranza di essere ripreso e ora è di là che aspetta di sapere se vuoi perdonarlo e riammetterlo. Ha detto così? L'han detto i suoi occhi. Quando l'ho svegliato l'ho sentito mormorare come un bimbo sperduto: Mamma Baer, sono tornato a casa. Non ho avuto cuore di sgridarlo e l'ho fatto entrare come una povera pecorella nera che ritorna all'ovile. Posso tenerlo, vero Fritz? Ma certo, questo mi prova che abbiamo fatto presa sul suo cuore. E ora non lo scaccerei più, che non farei con il mio Rob. Dan udì un lieve, dolcissimo suono, come se Mamma Jo avesse ringraziato suo marito senza parole, e nell'attimo di silenzio che seguì, due lacrimoni che s'erano andati lentamente raccogliendo negli occhi del ragazzo scesero giù per le guance polverose. Nessuno li vide, perché si affrettò a spazzarli via, ma son persuasa che nella breve pausa l'antica diffidenza verso quelle ottime persone svanì per sempre. Il punto vulnerabile del suo cuore fu toccato ed egli sentì un violento desiderio di mostrarsi degno di quell'affetto e di quella pietà tanto pazienti e indulgenti. Non disse nulla, ma mise in quel desiderio tutta la sua forza, risoluto a tradurlo in realtà non importa come, con la sua mentalità di fanciullo, e suggellò tale proposito con le lacrime che né il dolore, né la fatica, né la sconsolata solitudine avevano potuto strappargli. Vieni a vedere il suo piede, ho paura che sia in ben cattive condizioni perché ha continuato a camminare per 3 giorni nella polvere col caldo, senz'altro che acqua e una vecchia giubba per fasciarlo. Te lo dico io, Fritz, che questo è un ragazzo coraggioso e potrà ancora diventare un brav'uomo. Lo spero per te, donna piena di entusiasmo. La tua fede merita il successo. Ora vado a vedere il tuo piccolo spartano. Dov'è? Nella mia camera. Ma caro, sii molto buono con lui. Per quanto sgarbato possa parere, sono sicura che la dolcezza è il mezzo migliore per conquistarlo. Non sopporta la severità, non vuole essere tenuto troppo a freno, ma una parola buona e un'infinita pazienza riusciranno a domarlo, come succedeva con me. Come se tu fossi mai stata simile a questo mascalzoncello, esclamò papà Baer, ridendo, ma urtato da quell'idea. Lo ero in spirito, anche se lo dimostravo diversamente. Mi sembra di arrivare per istinto a capire quello che prova e quello che può riuscire a commuoverlo, e di simpatizzare con le sue tentazioni e i suoi errori, e ne sono contenta perché ciò mi servirà ad aiutarlo. E se potrò fare un galantuomo di questo ragazzo sfrenato, sarà stata l'opera migliore della mia vita. Che sia benedetta questa impresa e che tu sia aiutata. Papà Baer parlava ora con la stessa convinzione con cui aveva parlato lei. Insieme andarono da Dan, che stava col capo poggiato sul braccio come se dormisse, vinto dal sonno, ma lo rialzò subito cercando di sollevarsi quando il signor Baer gli disse in tono scherzoso: Dunque, Plumfield ti piace più della fattoria di Page? Beh, vediamo se questa volta potremo intendercela meglio di prima. Grazie, signore. Disse Dan, cercando di parlare con garbo e trovando la cosa più facile di quanto non si aspettasse. Ora, qua il piede. Ai, ai, ai, questo non va bene. Domani faremo venire il dottor Firth. Joe, fa scaldare dell'acqua e prepara delle vecchie pezze di tela. Papà Baer lavò e fasciò il piede ferito, mentre la signora preparava l'unico letto vuoto della casa nella cameretta degli ospiti che si apriva sul salotto ed era usata specialmente quando qualche ragazzo non stava bene, perché risparmiava alla mamma Baer le corse su e giù per le scale e l'invalido non restava isolato. Quando tutto fu pronto, il professore prese Dan fra le braccia e ve lo portò, dopo averlo aiutato a spogliarsi. Lo fece coricare nel lettino bianco, dove lo lasciò con un'altra stretta di mano e un paterno «Buonanotte, figliolo caro». Dan cadde subito in un sonno profondo e dormì per varie ore finché il piede cominciò a pulsare forte e a fargli male. Si svegliò allora, agitandosi nel letto, ma soffocando i lamenti per non farsi sentire perché era davvero un ragazzo coraggioso e sopportava il dolore come un piccolo spartano, per dirla col signor Baer. Mamma Jo aveva l'abitudine di correre per la casa di notte, furtiva come un'ombra, per chiudere le finestre se il vento si faceva troppo freddo, o per tirare la zanzariera sulla culla di Teddy, o per vedere che facesse Tommy, che qualche volta era sonnambulo. Bastava il minimo rumore per svegliarla. E siccome assai spesso si immaginava visite di ladri o di gatti o incendi, lasciava aperte tutte le porte. Il suo udito finissimo colse quindi i gemiti repressi di Dan. E in un attimo ella fu in piedi. Il fanciullo stava appunto dando un pugno disperato al cuscino troppo caldo quando una luce brillò nell'atrio e la mamma Baer entrò come un comico fantasma, coi capelli raccolti in un gran nodo in cima alla testa e una lunga vestaglia grigia che le strascicava dietro. Ti fa male, Dan? Assai, ma non la volevo svegliare. Oh, io sono un po' come le civette, sai, che volano sempre in giro la notte. Già, questo povero piede scotta come il fuoco. Bisogna bagnare di nuovo le fasce. E la tenera civetta svolazzò via per tornare con altro sedativo e un bicchiere di acqua gelata. Oh, che delizia! Sospirò Dan quando le fasce furono di nuovo bagnate e un lungo sorso d'acqua gli ebbe rinfrescato la gola arida. Su, ora fa una bella dormita e non ti spaventare se mi vedi ricomparire, perché di quando in quando verrò a darti un'altra spruzzatina. Così dicendo, si chinò per voltare il cuscino e spianare i lenzuoli. E allora, con sua grande sorpresa, il ragazzo le buttò le braccia al collo, avvicinò a sé il suo volto e la baciò con un «Grazie, signora», detto con voce rotta, ma più espressivo del più eloquente discorso, perché il rapido bacio e le due parolette appena mormorate volevano dire «Son pentito e farò del mio meglio». Ella lo comprese, accettò l'inespressa confessione e non la sciupò, dimostrandosi sorpresa, ma pensando che Dan non aveva mamma, baciò la guancia bruna che già si nascondeva sul cuscino, quasi egli si vergognasse di quell'accenno di tenerezza. Poi se ne andò, dicendogli, e Dan se ne ricordò a lungo: «Ora sei il mio figliolo, e se vorrai, potrai rendermi fiera e contenta di darti questo nome». Verso l'alba scese di nuovo e lo trovò così bene addormentato che non si svegliò né mostrò di accorgersi che lei gli bagnava di nuovo il piede. L'espressione di dolore era svanita dal suo volto, ritornato tranquillo. Il giorno dopo, domenica, la casa era silenziosa e quieta. Dan non si destò fino a mezzogiorno e, appena aperti gli occhi, vide un visetto ansioso che si sporgeva dalla porta. Tese le braccia e Teddy traversò di corsa la stanza e gli si buttò sul letto gridando: Danny mio, è tornato!» e abbracciandolo freneticamente. Subito comparve mamma Baer che gli portava la colazione, con l'aria di non vedere quant'egli fosse confuso, ricordando la piccola scena della notte precedente. Teddy volle a tutti i costi servirlo lui, imboccandolo come un bimbo, con gran divertimento di Dan, che non aveva troppa fame. Poi venne il medico e il povero spartano passò un brutto quarto d'ora perché qualche ossicino era danneggiato seriamente e rimetterlo a posto fu una cosa tanto dolorosa che le labbra di Dan divennero bianche e grosse gocce di sudore gli imperlarono la fronte. Ma non gridò, strinse solo la mano della signora Joe con tale forza da farla rimanere rossa per un pezzo. Bisogna tenerlo quieto per una settimana almeno e non lasciargli posare il piede in terra. Allora saprò se potrà saltellare un po' con le grucce o se dovrà restare inchiodato a letto qualche altro giorno, disse il dottor Firth, riponendo i lucidi ferri che Dan preferiva non vedere. Ma prima o poi tornerò a camminare bene, vero? Disse il ragazzo allarmato per quell'accenno alle grucce. Lo spero. E con questo il dottore se ne andò, lasciandolo molto depresso, perché la perdita di un piede è una tremenda disgrazia per un ragazzo attivo. Non aver paura, io sono un'infermiera coi fiocchi e fra un mese ti faremo andare in giro come prima, disse mamma Jo, sempre piena di speranza. Ma la paura di restare zoppo ossessionava Dan e neppure le carezze di Teddy riuscivano a rallegrarlo. Quindi la signora propose che uno o due dei ragazzi venissero a fargli una visitina e gli chiese quali gradirebbe vedere. Nat ed Amy, e vorrei anche il mio cappello. C'è dentro della roba che li interesserà di certo. Non ha mica buttato via il mio fagotto? Chiese poi con aria molto ansiosa. No, l'ho conservato, pensando che ci dovesse essere dentro dei tesori, a giudicare da come ti stava a cuore. E mamma Jo gli portò il suo vecchio cappello di paglia, pieno zeppo di farfalle e di scarabei, e un fazzoletto contenente una collezione delle cose più strane raccolte lungo il suo viaggio. Uova di uccelli, riposte con cura in mezzo al muschio, conchiglie e pietre di forma curiosa, pezzetti di funghi e alcuni granchiolini furibondi della loro prigionia. Posso avere qualcosa per metterci dentro queste bestioline? Le abbiamo trovate col signor Hyde e sono molto belle. Mi piacerebbe conservarle e osservarle, posso? Chiese Dan, dimenticando il suo piede e ridendo nel vedere i granchi strisciare sul letto, camminando di traverso. Oh, senza dubbio. La vecchia gabbia di Polly sarà proprio quel che ci vuole. Bada che non pizzichino le dita di Teddy mentre vado a prenderla. E mamma Jo uscì, lasciandolo tutto felice all'idea che i suoi tesori non erano stati buttati via come rifiuti. Nat, Demi e la gabbia arrivarono insieme e i granchi furono installati nella loro nuova casa con grande spasso dei ragazzi che nell'eccitamento di quell'operazione non si trovarono affatto imbarazzati al primo incontro col fuggiasco. A quegli ascoltatori ammirati, Dan fece un resoconto delle sue avventure molto più completo di quello fatto ai Bayer. Poi mostrò il suo bottino, descrivendone ogni articolo così bene che mamma Jo, ritiratasi nella stanza accanto per lasciarli liberi, ne rimase sorpresa e interessata e si divertì moltissimo alle loro chiacchiere. «Ma guarda, quante ne sa su queste cose e con che calore ne fa la spiegazione!» È una vera fortuna proprio ora, perché ha così poca passione per i libri e sarebbe difficile distrarlo finché sarà condannato a letto. Ma i ragazzi potranno rifornirlo abbondantemente di insetti e di sassi, e io sono contenta di aver scoperto questo suo gusto. È una buona cosa, e può aiutare a riformarlo. Se avessi a riuscire un grande naturalista e netto un musicista, potrei a buon diritto essere fiera del mio lavoro di quest'anno. E mamma Jo, col libro aperto fra le mani, sorrise ai suoi castelli in aria, proprio come faceva quando era una ragazzina, con la sola differenza che ora non riguardavano lei stessa ma gli altri. E forse per questo alcuni si avverarono, dato che la carità è la base migliore per ogni genere di costruzioni. Nat si interessò moltissimo alle avventure, mentre Demi apprezzò di più gli scarabei e le farfalle, assorbendo avidamente la storia della trasformazione di quelle piccole vite, come se si trattasse di un nuovo e delizioso genere di fiabe, perché Dan, anche nel suo modo semplice, raccontava bene, molto soddisfatto che ci fosse un campo nel quale poteva insegnare qualcosa al filosofo in erba. Ed erano così intenti ad ascoltare il racconto della cattura di un topo muschiato, la cui pelle figurava fra i tesori, che papà Baer dovette venire lui stesso a ricordare a Demi e Nat che era l'ora della passeggiata. Lo sguardo con cui Dan li seguì quando corsero via era così triste che papà Baer pensò bene di trasportarlo sul divano del salotto per un piccolo cambiamento d'aria e di ambiente. Quando vi fu sistemato e tutta la casa tranquilla, la signora Jo, che gli sedeva vicina, facendo vedere delle illustrazioni a Teddy, disse con aria interessata, accennando ai tesori che Nat teneva ancora fra le mani: «Dove hai imparato tante belle cose?» «Oh, mi sono sempre piaciute, ma ne sapevo poco, finché il signor Hyde non me le ha spiegate.» «E chi è il signor Hyde?» «Era uno che girava per i boschi, studiando tutto questo. Non so come si chiamano quelli che lo fanno. E scriveva sulle rane, i pesci e via dicendo. Abitava da Page e mi voleva sempre con sé per aiutarlo. Io mi divertivo un mondo perché mi raccontava tante cose ed era così allegro e sapeva tutto. Vorrei rivederlo un giorno o l'altro.» «Speriamolo», disse mamma Jo, perché Dan si era illuminato in volto e l'interesse vivo che prendeva all'argomento gli faceva dimenticare la sua abituale taciturnità. Pensi, riusciva a farsi venire vicini gli uccelli, i conigli e gli scoiattoli, come se invece di un uomo fosse stato un albero, perché non faceva mai loro del male, e pareva che lo conoscessero. «Ha mai fatto il solletico a una lucertola con un filo di paglia?» chiese poi vivacemente. «No, ma mi piacerebbe provare.» «Beh, io l'ho fatto, ed è un gusto vederle girarsi a pancia all'aria e stirarsi tutte, tanto ci godono. Il signor Hyde ci si divertiva spesso, e quando fischiava le serpi lo ascoltavano, e sapeva appuntino quando certi fiori sbocciano, e le api non lo pungevano, e raccontava un mucchio di cose straordinarie sui pesci, le mosche, gli indiani e le rocce.» «Ho idea che ti piacesse tanto andare col signor Hyde che trascuravi assai il signor Page», disse mamma Jo con aria d'intesa. «Già, non mi piaceva zappare e strappare le erbacce invece di andare in giro col signor Hyde. Page trovava che erano tutte sciocchezze e gli dava del pazzo perché era capace di stare delle ore stravaccato a osservare una trota o un uccello. Se tu dicessi sdraiato sarebbe forse meglio, corresse mamma Jo sorridendo. Poi aggiunse: «Sì, Page non ha altro in testa che l'agricoltura, non arriverebbe mai a capire che il lavoro di un naturalista non è meno interessante e forse altrettanto utile del suo. Ora, Dan, se realmente queste cose ti piacciono, come credo e come sono contenta di vedere, avrai tutto il tempo di studiarle e libri per aiutarti. Ma voglio che tu faccia anche qualche altra cosa, e con tutto l'impegno, altrimenti un giorno dovrai pentirtene e accorgerti che ti tocca ricominciare da capo. Sì, signora, rispose Dan remissivo, con aria un po' impressionata dal tono serio dell'ultima osservazione, perché non poteva patire i libri, pur essendo evidentemente deciso a studiare tutto quello che ella gli avrebbe proposto. Lo vedi quello stipo con 12 cassettini? Fu l'inaspettata domanda che la signora Joe gli rivolse subito dopo. Ce n'erano due, antichi ai lati del piano, e Dan li conosceva bene per averne visto uscire pezzi di nastro, chiodi, carta da pacchi e altre cose utili. Accennò quindi di sì, sorridendo. Bene, non ti pare che quei cassettini sembrino fatti apposta per metterci le tue uova, i sassi, le conchiglie, i licheni? Oh, che bellezza! Ma non le darebbe noia questo guazzabuglio di roba, come diceva il signor Page? Esclamò Dan, sollevandosi a sedere per esaminare con occhi brillanti il vecchio mobile. È una specie di disordine che a me piace. E quando anche non mi piacesse, ti darei ugualmente i cassetti, perché ho molto riguardo per i piccoli tesori dei ragazzi e credo che vadano trattati con rispetto. Ora, Dan, voglio proporti un patto, e spero che tu lo osserverai onestamente. Qui ci sono 12 cassetti, uno per ogni mese dell'anno. E saranno tuoi, non appena te li sarai guadagnati compiendo i piccoli doveri che ti aspettano. Io credo nell'efficacia di certe ricompense, specie per i giovani. Ci aiutano molto, e sebbene si cominci a essere buoni per amore del premio, si finisce per amare la bontà per se stessa. Ne riceve anche lei? Chiese Dan, al quale quel discorso riusciva evidentemente nuovo. Si capisce. Non ho ancora imparato a farne a meno. I miei premi non sono cassetti né regali né giorni di vacanza, ma cose che io amo quanto voi amate le altre. La buona condotta e la buona riuscita dei miei ragazzi sono uno dei premi che mi riescono più graditi, e io mi adopero per ottenerlo come desidero che tu faccia per ottenere lo stipo. Fa quello che non ti va e fallo bene, così avrai due ricompense: il premio che vedi e che tocchi, e la soddisfazione del dovere compiuto di buon animo. Mi capisci? Sì, signora. Abbiamo tutti bisogno di questi piccoli aiuti, così tu ti sforzerai di studiare le tue lezioni e di fare i tuoi compiti, di giocare d'amore e d'accordo con tutti i ragazzi e di impiegare bene le tue ore libere. E se mi porterai un buon voto, e se io vedrò e capirò che ti comporti bene, perché non mi sfuggono mai i piccoli sforzi meritori dei miei ragazzi, tu avrai una parte dei cassetti per i tuoi tesori. Vedi, alcuni sono già divisi in 4 scompartimenti, e farò ridurre allo stesso modo anche gli altri, uno per ogni settimana. E quando il cassetto sarà pieno di belle cose interessanti, io ne sarò orgogliosa non meno di te, forse anche di più, perché in quelle selci, in quei muschi e nelle belle farfalle vedrò i buoni propositi tradotti in atto, le cattive inclinazioni vinte, è una promessa ben mantenuta. Dobbiamo fare così, Dan? Il ragazzo rispose, con uno sguardo eloquente che dimostrava come egli avesse sentito e compreso il desiderio e le parole di lei, pur non sapendo esprimere il suo interesse e la sua gratitudine per tanta affettuosa premura. Mamma Baer ne capì il significato, e vedendo dal rossore che gli salì al viso che egli era commosso, come lei desiderava, non parlò più di questo lato del nuovo progetto, ma levato il cassettino superiore lo spolverò e lo pose su due sedie davanti al divano, dicendo allegramente: Beh, cominciamo subito col mettere al sicuro questi graziosi scarabei. Come vedi, in questi scompartimenti ce ne starà un bel numero. Se fossi in te, appunterei le farfalle e gli insetti lungo i lati, dove staranno benissimo, lasciando al di sotto lo spazio libero per le cose pesanti. Ti darò della bambagia, della carta pulita e degli spilli, così potrai prepararti per il lavoro della settimana. Ma io non posso uscire a cercare altra roba, disse Dan, guardando tristemente il suo piede. È vero, ma poco male. Faremo bastare per la prima settimana questi tesori, e scommetto che i ragazzi, se glielo chiederai, te ne porteranno un mucchio. Oh, ma non conoscono quello che serve, e se io devo stare strabaccato, no, sdraiato qui, non potrò lavorare e studiare per guadagnarmi i miei cassetti. C'è un mucchio di cose che potrai imparare stando qui coricato, e molti lavoretti che potrai fare per me. Davvero? Chiese Dan sorpreso e contento. Puoi imparare ad essere paziente e allegro nonostante il male che senti e l'impossibilità di giocare. Puoi divertire Teddy, invece mia, dipanare matasse, leggermi qualcosa mentre cucio e molte altre cose senza farti male al piede. Così il tempo ti passerà in fretta e non sarà sprecato. A questo punto, Demi entrò di corsa con una grande farfalla in una mano e un orribile ranocchio nell'altra. Guarda, Dan, li ho trovati e son corso subito a portarteli. Non sono belli? Gridò tutto trafelato. Dan rise alla vista del ranocchio e disse che non aveva dove metterlo, ma la farfalla era una bellezza e se Mamma Jo volesse dargli uno spillo, la fisserebbe subito nel cassetto. Non mi piace vedere queste povere creature dibattersi sulla punta di uno spillo. Se deve morire, che almeno non soffra. Basta una goccia di canfora, disse Mamma Jo prendendo la bottiglietta. Io so come si fa. Il signor Hyde le ammazzava sempre così, ma io della canfora non ne avevo, e allora adoperavo uno spillo. E Dan ne versò adagio una goccia sulla testa dell'insetto. Le ali, di un verde pallido, si sbatterono un istante e poi rimasero immobili. Questa delicata esecuzione era appena finita quando la voce di Teddy echeggiò nella camera da letto. Oh, banchiolini, cappati, quello glosso se li pappa! Demi e la zia corsero alla riscossa e trovarono Teddy che ballava tutto eccitato su una sedia, mentre due piccoli granchi sfuggiti attraverso le sbarre della gabbia correvano sul pavimento, e un terzo si era arrampicato su per la volta, temendo evidentemente una triste fine, perché sotto di lui si svolgeva una scena tragica eppure comica. Il grosso granchio si era ficcato nel piccolo vano dove stava il beverino di Polly e lì era intento a mangiarsi uno dei suoi simili col massimo sangue freddo. Tutte le pinze erano state strappate alla povera vittima capovolta, di cui il grosso granchio si teneva con una delle chele il guscio superiore sotto la bocca come se fosse un piatto, mentre con l'altra andava staccando i bocconi che mangiava con tutta calma, interrompendosi ogni tanto per girare attorno i suoi strani occhi sporgenti e cacciar fuori una lingua sottile per darsi una leccata, cosa che faceva ridere i ragazzi a crepapelle. La signora Jo trasportò la gabbia in camera perché Dan godesse lo spettacolo, mentre Demi catturava e confinava i fuggiaschi sotto una catinella rovesciata. «Bisogna che li lasci andare, questi disperati. Non posso tenerli in casa», disse Dan con evidente rimpianto. «Me ne occuperò io per te, se mi dirai come devo fare. Potrebbero vivere insieme alle mie tartarughe», disse Demi, che li trovava più interessanti delle sue lentissime bestie. Dan gli dette allora alcune istruzioni circa i bisogni e le abitudini dei granchi e Demi li portò via per metterli nella nuova casa e presentarli ai loro vicini. «Quanto è buono», disse Dan, mentre sistemava accuratamente la prima farfalla, ricordando che Demi aveva rinunciato alla sua passeggiata per portargliela. «È naturale che lo sia, perché si è fatto molto per renderlo tale». Lui ha avuto chi gli insegnava e lo aiutava, io no, disse Dan con un sospiro, pensando alla sua infanzia trascurata, cosa che gli accadeva di rado e sentendosi in certo modo truffato dal destino. Lo so, caro, e per questo non pretendo da te quanto da Demi, sebbene sia più piccolo. Tu avrai tutta l'assistenza che noi possiamo darti ora, e io spero di insegnarti poi a contare su te stesso. Hai dimenticato quello che ti disse papà Baer la prima volta che venisti? Che dovevi desiderare di essere buono e chiedere a Dio di aiutarti. No, signora, e la voce parve un soffio. Vorrai continuare con lo stesso sistema? No, signora, sempre più piano. Pregherai tutte le sere per farmi piacere? Sì, signora, il tono era molto serio. Io ci conto. E mi accorgerò se mantieni la tua promessa, perché certe cose si manifestano sempre a chi crede in esse, senza bisogno di parole. E ora, eccoti un bel racconto di un ragazzo che si fece male a un piede, peggio di te. Leggilo e vedi di quanto coraggio fece prova. Gli pose fra le mani quel delizioso libro che è The Cretan Boys e lo lasciò per un'ora, attraversando però ogni tanto il salotto perché non si sentisse troppo solo. A Dan non piaceva leggere, ma il libro lo interessò talmente che rimase sorpreso del ritorno dei ragazzi perché non credeva che fosse trascorso tanto tempo. Daisy gli portò un mazzo di fiori di campo e Nan volle servirgli la cena sul divano con la porta aperta da cui poteva vedere i ragazzi a tavola che gli facevano cenni affettuosi mangiando il loro pane e latte. Il signor Baer lo riportò presto nella sua cameretta e Teddy, che andava a letto all'ora delle galline, venne ad augurargli buon riposo in camicia da notte. «Posso dire le preghiere qui da Danny?» chiese. E avutone il permesso, l'ometto si inginocchiò accanto al letto di Dan e congiungendo le manine paffute disse piano «Oh Signore, benedici tutti, aiutami a essere buono!» Poi se ne andò, sorridendo, mezzo addormentato, di sulla spalla della mamma. Finita la conversazione della sera e cantati gli inni, quando sulla casa regnò il bel silenzio domenicale, Dan rimase a lungo sveglio nella sua simpatica cameretta con nuovi pensieri nella mente. Nuove speranze e nuovi desideri nel cuore, perché due buoni angeli vi erano penetrati. L'amore e la gratitudine stavano iniziando l'opera che il tempo e lo sforzo assiduo avrebbero un giorno compiuta. E desiderando fermamente di mantenere la sua promessa, Dan congiunse le mani nel buio e mormorò piano la piccola preghiera di Teddy. «Oh Signore, benedici tutti e aiutami a essere buono!» Capitolo 11. Lo zio Teddy. Per una settimana Dan non poté muoversi che dal letto al divano. E fu una settimana lunga e penosa perché il piede ferito certe volte gli faceva proprio male e quelle giornate di immobilità riuscivano noiosissime a un ragazzo vivace come lui che si struggeva di uscire a godersi l'estate e che trovava particolarmente difficile conservarsi paziente. Ma fece del suo meglio e tutti lo aiutarono come potevano. Così il tempo passò e finalmente venne la ricompensa quando il dottore un sabato mattina dichiarò «Questo piede va meglio di quanto sperassi. Oggi, nel pomeriggio, dategli pure le grucce e lasciatelo girellare un po' per casa». «Urrà!» gridò Nat, che si precipitò fuori a portare la buona notizia agli altri ragazzi. Furono tutti molto contenti e dopo pranzo si riunirono per vedere Dan zoppicare con le stampelle su e giù per il vestibolo. Dopodiché si accomodò sotto il porticato come un piccolo re circondato dalla sua corte. Era molto contento dell'interesse affettuoso che gli dimostravano e la sua allegria cresceva di minuto in minuto. I ragazzi venivano a salutarlo, le ragazzine si davano un grande affare con sgabelli e cuscini e Teddy vegliava su di lui come se fosse stata una debole creatura incapace di fare qualcosa da sola. Erano ancora sui gradini, parte seduti e parte in piedi, quando una carrozza si fermò alla cancellata e si vide sventolare un cappello con un grido «Zio Teddy! Zio Teddy!» Rob si precipitò giù per il viale con tutta la velocità consentitagli dalle sue piccole gambe, seguito da tutti gli altri, tranne Dan, perché ognuno desiderava di arrivare primo ad aprire il cancello. E un minuto dopo la carrozza si avanzò con lo zio Teddy, che rideva in mezzo a una frotta di ragazzi, tenendosi sulle sue ginocchia la sua figliolina. «Fermate il carro trionfale e lasciate scendere Giove!» disse, e balzando fuori fece di corsa gli scalini incontro alla signora Baer, che sorrideva battendo le mani come una bambina. «Come va, Teddy?» «Benissimo, Joe!» Si strinsero la mano e il signor Lori mise Bess fra le braccia della zia, dicendo, mentre la bimba l'abbracciava stretta, «Che Omadoro aveva una tale voglia di vederti che sono scappato via con lei, perché anche io morivo dal desiderio di stare un po' con te. Vogliamo giocare un'oretta coi tuoi ragazzi e vedere come se la cava la vecchierella che viveva in una scarpa e aveva tanti figlioli che non sapeva che farne?» «Come sono contenta! Va a giocare, non fare troppe monellerie!» rispose mamma Jo, mentre i ragazzi si affollavano intorno alla bella bambina, ammirandone i capelli d'oro, l'elegante vestitino, il contegno sdegnosetto, perché la principessina, come la chiamavano, non permetteva a nessuno di baciarla, ma sorrideva dall'alto, dando loro dei colpetti sul capo con le piccole mani bianche. Tutti l'adoravano, specie Rob, che la considerava come una pupattola e non osava toccarla dalla paura che si rompesse, ma la venerava, tenendosi a rispettosa distanza, felice se poteva ottenere uno sguardo di favore dalla piccola altezza. Siccome aveva subito chiesto di vedere la cucina di Daisy, mamma Jo la portò di sopra, seguita dal codazzo dei più piccoli. Gli altri, meno Nat ed Amy, erano corsi all'allevamento delle bestie e ai giardinetti a mettere tutto in ordine perché il signor Lori faceva sempre un'ispezione generale ed era spiacentissimo se non trovava le cose in ottimo stato. Stando ancora sui gradini, si volse a Dan e gli disse, come una vecchia conoscenza, sebbene non l'avesse visto che una o due volte: Come va il piede? Meglio, signore. Un po' stanco di stare in casa, vero? Lo credo io, e gli occhi di Dan corsero dalle verdi colline al bosco dove non vedeva l'ora di andare. E se facessimo un giretto prima che tornino gli altri? In questa grande carrozza comoda non soffrirai certo, e una boccata d'aria fresca ti farà bene. Demi, va a prendere un cuscino e uno scialle, portiamo via Dan. I ragazzi trovarono l'idea splendida. Dan aveva l'aria felice, ma in uno slancio inaspettato di virtù chiese: Sarà contenta, mamma Baer? Certo, abbiamo combinato tutto questo un minuto fa. Ma se non ne avete detto una parola, come avete potuto mettervi d'accordo? Chiese quell'indiscreto di Demi. Noi abbiamo un sistema speciale per scambiarci dei messaggi, senza bisogno di parole. È un bel perfezionamento del telegrafo. Lo so, con gli occhi. L'ho visto alzare le sopracciglia e accennare col capo la carrozza, e la signora rise e ha risposto con un altro cenno. Esclamò Nat, che ormai non aveva alcuna soggezione dell'affabile signor Lori. Proprio così. E ora su, andiamo. In un attimo Dan si trovò seduto in carrozza, col piede appoggiato su un cuscino posto sul sedile di fronte, ben coperto da uno scialle caduto in modo misterioso dalle regioni superiori, proprio mentre se ne cercava uno. Demi si arrampicò in serpe accanto a Peter, il cocchiere nero. Nat sedette al posto d'onore accanto a Dan, mentre lo zio Teddy volle mettersi davanti a loro per badare al piede, come disse, ma in realtà per poter studiare i volti, così diversi pur nella loro espressione felice che gli stavano di fronte. Quello di Dan, quadrato, bruno e forte, e quello di Nat, ovale, chiaro e un po' delicato, ma tanto simpatico, con quegli occhi dolci e quella bella fronte. A proposito, ci deve essere qualcosa qui che può interessarvi, disse il più grande dei ragazzi, traendo fuori un libro di sotto il sedile. Oddio, che meraviglia! Esclamò Dan, quando ebbe cominciato a sfogliarlo, ammirando le belle incisioni rappresentanti farfalle, uccelli e ogni sorta di insetti interessanti, a colori così naturali da farli sembrare vivi. Nella sua estasi si dimenticò di ringraziare, ma il signor Lori non se l'ebbe a male, soddisfatto di vedere la gioia del fanciullo e di sentire le sue esclamazioni quando si imbatteva in qualche vecchio amico. Nat si curvava sulla sua spalla per guardare e Demi, voltando la schiena ai cavalli, lasciava penzolare le gambe dentro la vettura per poter partecipare alla conversazione. Quando arrivarono ai coleotteri, il signor Lori si tolse dal taschino il piccolo oggetto assai curioso e, tenendolo sul palmo della mano, disse: Ecco uno scarabeo che conta migliaia di anni. E mentre i ragazzi esaminavano l'insetto pietrificato, così grigio e vecchio, egli raccontò loro che era stato trovato fra le bende di una mummia, dopo secoli e secoli passati in una tomba famosa. Vedendo poi l'interesse col quale l'ascoltavano, continuò a parlare degli egiziani e delle strane e splendide rovine che avevano lasciate dietro di loro, del Nilo, dei viaggi che aveva fatti sul grande fiume, in un'imbarcazione affidata a bellissimi uomini neri. Raccontò dei coccodrilli che aveva uccisi, delle bestie e degli uccelli meravigliosi che aveva visti, poi delle traversate del deserto in groppa a un cammello che rullava come una nave sul mare in tempesta. Lo zio Teddy racconta quasi bene come il nonno, disse Demi in tono di approvazione quando egli ebbe finito, mentre gli occhi dei ragazzi chiedevano ancora un seguito. Grazie, rispose con molta gravità il signor Lori, che teneva assai agli elogi di Demi, sapendo come i bambini siano buoni critici in questi casi e come non tutti possano vantarsi di saperli contentare. Ecco qui qualche altra bagatella che mi son cacciato in tasca mentre frugavo fra le mie cose per vedere se ce ne fosse qualcuna che potesse divertire Dan. E lo zio Teddy mostrò una bella punta di freccia e una filza di conchiglie colorate. Oh, raccontaci degli indiani, pregò Demi, a cui piacevano molto le loro capanne. Dan sa un mucchio di cose su di loro, osservò Nat. Probabilmente più di me, dicene qualcosa, lo esortò il signor Lori, mostrandosi non meno interessato degli altri due. Quel che so, me lo ha raccontato il signor Hyde, che è stato fra loro e parla la loro lingua ed è loro amico, cominciò Dan, assai lieto dell'attenzione che gli prestavano, pur essendo un po' imbarazzato di avere una persona adulta fra gli ascoltatori. A che servono le conchiglie? Chiese curioso Demi dall'alto sediolo dove era appollaiato. Anche gli altri fecero un mucchio di domande e prima ancora di accorgersene Dan stava spifferando tutto quello che il signor Hyde gli aveva raccontato alcune settimane prima mentre vogavano sul fiume. Il signor Lori ascoltava attento, ma trovava Dan più interessante degli indiani perché Mamma Jo gli aveva parlato di lui ed egli provava una viva simpatia per quel ragazzo selvaggio che era scappato, come lui stesso aveva spesso desiderato di fare e che ora veniva a poco domato dal dolore e dalla pazienza.